Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Se io fossi realmente ipocondriaco, non viaggerei in treno per la maggior parte del mio tempo. I treni sono pieni di malattie. Però il mio sogno più nascosto, più riposto, più lussurioso è di avere una farmacista sempre a mia disposizione. Per ogni minimo malessere, una donna che si occupa di me. E quella volta, casualmente, mi sono trovato davanti proprio una farmacista. L'ho capito dal manuale che stava sfogliando. Era un manuale tecnico, ma le guardavo le mani. Erano mani abituate a fare pozioni, a preparare medicine, a dare cure. La donna che mi avrebbe dovuto affiancare per tutta la vita, ma grazie a Dio così non è stato. Quante ore al giorno stai dietro il banco di una farmacia? 8 ore. 8 ore, quindi gente ne vedi? Abbastanza, sì sì. Senti, ma la farmacia è un po' il posto dove tutti vanno anche a chiedere consigli. È rimasto un po' un rapporto un po' antico. Io vedo che molta gente va in farmacia è come se andasse da un dottore a chiedere delle cose. Altre volte non deve comprare nulla. Sì, comprare nulla fortunatamente no. Però, perché ovviamente siamo anche lì per quello. Però sì. Gli uomini come si comportano? Diciamo che in farmacia è un capitolo che non posso non toccare. Ci sono anche le richieste innominabili. C'è ancora imbarazzo nel trovare una signora dall'altra parte del banco? No, fortunatamente no. I primi anni notavo parecchio imbarazzo, davano la ricetta a stento salutando e sfuggendo. Ormai questo imbarazzo, anche perché credo che siamo più farmaciste donne dietro il bancone, stiamo superando numericamente i colleghi, per cui grazie al cielo questo imbarazzo che c'era non fino si a qualche anno fa, non si vergognano più. E l'articolo va, la pillolina miracolosa va. La pillolina miracolosa va. E dove le tieni? C'è uno scompartimento apposta? Noi li teniamo in ordine alfabetico, però sì, in un cassetto. Il cassetto in modo, del piacere, diciamo. Il cassetto del piacere, anche se poi sono farmaci per la disfunzione erettile, per cui hanno anche aiutato veramente a superare dei problemi fisici. Però sì, c'è il cassetto del piacere. Ma c'è un giorno della settimana in cui ne vendi di più? Sì, notiamo che il venerdì. Consumo di pillole. Sì, così come anche Capodanno, il 31 dicembre è uno dei giorni. Ah, insieme allo spumantino, al panettone, i botti, sì, si compra la pillola. Si compra la pillola, assolutamente. Ma sì, in dosi personali o c'è qualcuno che fa anche l'incetta per gli altri? Come funziona? Credo che dove lavoro io sono una zona, insomma, con alberghi molto frequentati anche da stranieri e ho notato che gli MCC, penso forse anche d'accordo con qualche medico perché hanno sempre la prescrizione, acquistano particolarmente, quindi o sono particolarmente attivi per via delle straniere oppure per arrotondare. C'è un servizio in più, diciamo. È un servizio in più, esatto, per arrotondare le mance. Ci sono più situazioni spiacevoli in farmacia, situazioni critiche, fastidiose? Una volta quelli venivano a prendersi le siringhe, esistono ancora? Esistono ancora, o meno, forse. Molto meno, però sono sì sempre antipatiche come situazioni. Ma a me danno più fastidio magari le zingare o pseudotali che entrano e capisci che entrano in flotte perché chi ti distrae, chi ti domanda una cosa e ti cerca di rubare. Le cose sì. Si portano via, le cremine. Le cremine, non è poco. Ah, sì. Ti fanno un bel danno. Sì. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ti hanno rapinato anche? Sì, sì, sì. Proprio con le armi? Sì. Se sì. C'erano pistole? Pistole, assolutamente. È stato orrendo. E come è successo? Cosa ti hanno fatto fare? Ferma lì. Sì, alla fine sono voi molto veloci, però dopo mi ricordo che ho anche, per il nervosismo e la paura, ho anche rimesso. Ah, sì, beh, sì, è normale. Minimo. Infatti, no, è brutto. Sono molto veloci, non sono mai la più. Cosa vogliono? I soldi della soldi. Fra i clienti esistono dei personaggi ricorrenti, persone fanno strane richieste, cose assurde. Gli oggetti di piacere li vendete? Gli oggetti di piacere, abbastanza, qualcosina. Tipo cosa? L'anello vibrante, cioè. L'anello vibrante non va più. Non va andava più. Tantissimo. Forse non se va più di moda adesso. Non va più di moda. Forse se rimettessero la pubblicità, chissà. Anche la gente non capiva cosa fosse. Sedeva a tavola due fidanzati, gli dava questa scatoletta, le apriva e tremava però tutto. Si vendeva benissimo, secondo me la gente aveva dovuto fare trasmissioni per spiegare cosa serviva l'anello vibrante. La gente pensava si mettesse al dito. Ah, ecco. No. Però per esempio ecco la pubblicità del lubrificante fa vendere tantissimo. Però la gente pensa che per fare i massaggi soltanto. No, mi domandano: ma lei sa se questo che sapore ha? No. Eh beh, giustamente. Beh, c'è scritto sopra fragola, sì, lampone, mirtillo. Sì, è infatti incredibile. Anche perché non è che uno normalmente. Diciamo si è strammatizzata anche la vendita di accessori legati alla sessualità. Sì, anche perché li vendi e non è che puoi fare quella che si vergogna o che è. Anche gli uomini quando acquistano, diciamo, profilattici non hanno vergogna. Io mi ricordo, guarda, nelle vecchie farmacie c'era sempre un signore che non era un farmacista, stava lì con una gabanella nera, era quello da cui andavano gli uomini quando andavano a comprare preservativi, sì, erano sì. Nascosti, o anche dal farmacista, sì, erano nascosti in un cassetto, bisogna andare lì, addirittura c'era una nei vecchi modelli anni 60, diciamo, c'era un foglietto scritto da usare in farmacia per richieste riservate. C'era un foglietto con scritto: prego, vorrei una confezione di questo tipo. Ce n'era un tipo solo allora, poi. Sì. Oggi non esiste più. No, oggi sono esposti, ce ne sono colorati, diversi, divertenti. Esatto, ci sono diversi tipi, assolutamente, ma è anche giusto così. Anche diverse da misure. Anche diverse misure. E lì come fa uno? Dice: signora, come fa a essere consigliato? No, là non consigli. Loro lo sanno, c'è scritto. Ci sono gli spacconi, dicono: mi dia gli XXXXL. Veramente c'è. Fanno gli spacconi, sì. Però. No, non lo so, può darsi che veramente serva. Non, su questo non approfondisco. Come ti piace il tuo lavoro? È bello. Moltissimo. Esistono dei farmaci per le persone a cui dà fastidio il treno? Adesso l'alta velocità ogni tanto dà un po' di nausea. Non dire il nome perché non vuoi. No. Sì, ci sono da tantissimo i farmaci per la cinetosi. Anche omeopatici. Io sto ore sul treno, poi ogni tanto viene la nausea quando va tanto veloce. Sì, ci sono. Me lo dai dopo, me lo consigli. Sì, tanto sono da banco. Grazie, buon viaggio. Grazie. Ciao. Treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. La farmacista non si è sprecata, ma ha dato qualche campioncino di sapone, di cremina, di cura per il mal di denti, cose che in realtà forse sono sempre utili. Ma mi ha dato modo di incrociare una persona che avevo già visto in un viaggio precedente, la viaggiatrice, colei che mi ha raccontato l'elenco interminabile dei suoi amori e che questa volta sembra che non veda l'ora di continuare il suo racconto. Ma hai risolto alcuni dei tuoi problemi? No, guarda, anzi, ho incontrato uno dei miei ex storici proprio. Quanto tempo c'eri stato? 5 anni. Ma ti vedo un po' corrucciata. Dopo quanto tempo l'hai No, mi sono fatta delle grassissime risate. Sì. Sì. A rivederlo un oggi, ex amore? Sì. Ma lui che ti ha detto? Mi ha salutato, mi ha chiesto come stavo. Hai tentato la ripresina? No. Beh, era fuori. Storie finite, sono finite. Beh, questo aspetto a dirlo. E quindi cosa vi siete detti? Ah, gli ho chiesto come stava, l'ho visto un po' cambiato. In che senso? E nel senso, sembra che faccia un'altra vita adesso, si è lasciato andare un attimino alla sua anima new age, diciamo così. E cioè che ha iniziato un corso di shiatsu e massaggi, va cioè yoga. Li subisce o li fa? Secondo me entrambe le cose, perché ho ricollegato a quello che succedeva nell'ultimo periodo. Che succedeva? E anche subito dopo appena lasciati, per caso così ho imparato da lui, perché purtroppo non si teneva un cecio in bocca,

fu un'applicazione scientifica, qualcosa che era soltanto sul piano onirico. Il clubino, in realtà, nella spiegazione che posso fare per le persone che appartengono ad altre generazioni, era un luogo molto singolare, molto spesso un garage, un ripostiglio, una cantina, che secondo le mode in voga in quel tempo veniva attrezzato come una imitazione di discoteca o qualcosa del genere, molto buio, molte luci con gli specchietti, molto latte e menta, perché quello era il massimo dell'estasi che ci veniva concesso. Il luogo Galeotto era una cantina adibita a pomiciatoio, con un po' di musica, qualche divanetto, latte e menta come consumazione obbligatoria. Mi ci aveva portato un compagno di classe che era già fidanzato, consigliandomelo come luogo ideale per mettermi assieme ad una biondina molto graziosa in viso, per il resto magra e piatta come un'acciuga, però io le piacevo. Come da istruzioni ricevute, cominciai a ballare un lento, le baciai il collo, le chiesi di mettersi con me e ci baciammo in bocca con la lingua. Mai fatto io, espertissima lei, anche se aveva 4 anni in meno di me, ma io ho studiato dai preti e lei alla scuola pubblica, e la differenza era notevole. Dunque non persi tempo, guadagnai il divanetto e cominciai l'esplorazione. La sua resistenza era inesistente e l'unica difficoltà fu infilare le mani nei jeans, praticamente cuciti addosso come usava a quei tempi. Finalmente ci arrivai. La cosa era indescrivibile, non aveva una forma netta, ma mi parve una sorta di accesso alle viscere, pieno di superfici frastagliate che sembravano i bargigli di una gallina. Tutto si apriva in mezzo ad una massa pelosa. Già, il pelo fu una sorpresa. Insomma, ravanai un po' alla bene e meglio e mi annusai le dita. Fu l'odore mai sentito prima che mi dette il vero segnale sensoriale dell'essenza della cosa sconosciuta. Mi sniffai le mani per tutto il viaggio di ritorno a casa in autobus e poi corsi a lavarmele, terrorizzato che qualcuno s'accorgesse che le avevo messe in quel posto, che nessuno aveva mai osato nominarmi per quasi 17 anni di vita familiare. Il giorno dopo il mio compagno, che credevo scafatissimo, mi chiese delucidazioni sulla mia scoperta e capii che lui, nonostante fosse fidanzato da mesi, non era mai arrivato a tanto. Le due ragazze si erano confidate la sera al telefono e la sua fidanzata si era quasi decisa a recuperare. Signori, al tempo le ragazze di buona famiglia si facevano toccare le tette al di sopra della maglietta e finiva qui. Non so dove si parlasse di rivoluzione sessuale, ma da noi ancora non si era a quel punto. Si dice che il problema della diversificazione anagrafica in una coppia in cui naturalmente l'amore va oltre la barriera generazionale non sia più così importante nella determinazione della durata del rapporto. Però evidentemente nella storia di questa mia ascoltatrice, che ha voluto sintetizzarmela in una sua sofferta narrazione, l'età ha contato e ha contato anche molto. Io ho 38 anni e ho conosciuto il mio ex marito ormai quando ne avevo 23-24 e lui già ne aveva 43, quindi c'erano 18 e passa anni di differenza. Mi sono all'inizio, non so, non innamorata, perché non lo vedevo come una persona troppo grande, e poi invece nel tempo si è sviluppato invece un qualcosa di più profondo che è sfociato poi nell'amore. Sono rimasta colpita dal carisma di questa persona. Quest'uomo aveva già avuto un precedente matrimonio dal quale erano nate 2 figlie, però era in fase di separazione. Abbiamo deciso noi successivamente di sposarci. Il fatto di essermi innamorata di un uomo di 42-43 anni quando io ne avevo appena 24 deriva dalla mia consapevolezza di avere di fronte un uomo maturo, quindi una persona che era in grado di potermi dare una certa tranquillità a livello emotivo. Quindi non avevo di fronte il ragazzino con il quale ci puoi fare una pomiciata e poi però finisce là. Era una persona con la quale magari tu puoi anche pensare ad un discorso di costruire qualcosa, e lui è stata la prima persona con il quale io ho fatto sesso, perché ero piena di paure mie, di timori miei. Evidentemente proprio il fatto dell'età è stata una componente aggiuntiva per farmi stare tranquilla anche da quel punto di vista.

e gli ripaga pan per focaccia e fa esattamente quello che fa lui, trasformandosi nella terminologia, ahimè, scurrile, deleteria e a volte offensiva della trattatistica amorosa autoerotica in una MILF. Una donna accettabile, quella che potrebbe essere la madre di un compagno di classe ancora gestibile dal punto di vista del contratto carnale, e quindi si mette anche lei alla ricerca di prede giovani. Anche lei capisce quanto gratifichi una persona avanti nel tempo trovare attenzione, adorazione, amore, gratificazione da parte di qualcuno che generazionalmente non dovrebbe più appartenere alle proprie cure amorose. Renova. Orbene, in questa parte del mio viaggio smetto di schermirmi, di fare quello che non se ne vuole occupare, e accetto di essere anche un confidente amoroso, anche se ho sempre detestato la figura dell'uomo confidente alle donne, e questo più l'ho detto. Ma non so per quale ragione, mentre i maschi mi scrivono e mi dicono: ah, tu prendi l'occasione del treno per fare il provolone, non fai altro che cacciare signore in viaggio. Ma cosa caccio? Io semplicemente carpisco racconti, carpisco sensazioni, carpisco storie e ne faccio la carne viva del mio lavoro. Non è facile passare giornate e giornate seduto sui sedili di un treno a vedere il paesaggio sempre uguale, a sentire sempre lo stesso rumore di fondo. Datemi almeno il conforto di essere il curioso delle donne, di essere quello che comunque entra sempre di più nei segreti dell'animo femminile, ammesso che le donne abbiano la possibilità, la facoltà, la volontà di rivelare i loro veri segreti. In questo caso l'audiolettera me la manda una donna sposata, o perlomeno una donna che ha creduto nel matrimonio, ma si rende conto che a un certo punto di questo cammino non tutto è come si immagina che fosse, leggendo romanzi d'amore, seguendo telenovelas, ascoltando i consigli delle brave amiche che mai rivelerebbero gli aspetti subdoli, le trappole amorose che si celano in una lunga relazione matrimoniale. Caro Gianluca, sono una donna di 40 anni, sposata da 6 e con un figlio di 4. Provo a descrivermi, anche se non sono così brava. Sono una donna che potrei dire, con termini un po' antiquati, di bell'aspetto, ma direi soprattutto una donna come tante, con pregi e difetti. Mi piaccio per come sono. Sono stata sempre una ragazza che ha avuto un buon rapporto con i maschi. Forse mi ha aiutato il fatto di essere cresciuta con 2 fratelli. Insomma, prima del matrimonio ho imparato ad essere schietta, a non complicare le cose quando non ce n'è minimamente bisogno. Prima del matrimonio ho vissuto storie più o meno impegnate di pari passo agli studi universitari. Poi, dopo una storia di 2 anni, a 32 anni, mi imbatto nell'uomo che ho intuito subito essere quello giusto, di 2 anni più grande di me. Ci siamo sposati e dopo 2 anni è arrivato un figlio. All'inizio tutto bene. Il punto dolente della mia storia coniugale è il tempo. Mio marito, già quando eravamo fidanzati, oltre al lavoro in azienda, aveva una seconda attività legata allo sport e che un paio di volte al mese gli occupava la domenica intera. Avevo sempre rispettato questa sua passione, che non avevo mai voluto percepire negativamente, anche se, ovviamente, avrei preferito avere più tempo libero da condividere con lui. Quello che ha segnato un passaggio negativo è stato l'aumento di impegni assunti da mio marito in questa seconda attività, al punto da occuparlo ormai quasi tutte le domeniche. A volte sono andata anche con lui, ma mi creda, è stato solo una noia per me e probabilmente pure per lui. E mentre una volta, quando rientrava a casa, tornava con il sorriso e con la voglia di ritrovarmi, sempre più nel tempo l'ho visto spegnersi, perdere interesse in me, anche se ovviamente lui negava e parlava di stanchezza. Eppure all'esterno continuava e continua ad apparire brillante e dinamico. È giusto dirlo, anche se fa male dirlo, le persone non si accontentano mai. Vogliono lambire e quindi fruire appieno della fase matura di un rapporto, una fase basata sulla stima, è una fase basata sugli interessi comuni, è una fase basata sulla gestione della propria vita, e cercano anche in quella fase i palpiti amorosi, le sorprese, le palpitazioni, ciò che in realtà appartiene alla fase bambina di un amore, a quella che determina il massimo scatenamento delle nostre facoltà ormonali, ma semplicemente per il fatto che noi dobbiamo rimanere affascinati da un'altra persona. Una volta che l'altra persona ci ha affascinato, una volta che a lei siamo legati per la vita o per un lungo periodo, non possiamo più aspettarci nulla di tutto questo. Dopo qualche tempo, cerco di essere sintetica, ho cominciato a sentire una forte attrazione per un collega col quale passo quasi 6 ore al giorno. Sono quelle dinamiche in cui si instaura una complicità e un'intimità che non sai come gestire. Cominci a raccontarti sempre di più, a condividere un po' tutto di te, e finisce che ti innamori, come è successo a me. Non so quanto questo innamoramento sia una reazione all'atteggiamento di mio marito nei miei confronti, ma dopo molti tentennamenti ho ceduto. E ora siamo amanti, visto che anche lui è sposato. Chi l'avrebbe mai detto? Ora, in tutto questo stravolgimento emotivo che ho vissuto, lei pensa che mio marito si sia accorto di qualcosa? Niente di niente. E mi sembra quasi impossibile, visto che mi conosce benissimo e che quando vuole nota tutto di me. Le dico qual è la mia spiegazione. Anche lui ha un amante, cosa di cui sono quasi certa, e in fondo gli sta bene così. Evidentemente per lui è troppo complicato mettersi in discussione reciprocamente, e ora non so cosa fare. Non so se rompere questo equilibrio fragile e ipocrita in cui ognuno fa finta di non vedere le tresche dell'altro, o se lasciare tutto com'è. Ma che senso avrebbe? Questo è un altro meccanismo tipico dei rapporti di coppia nella fase matura, chiamiamola così. Una persona si lascia andare, una persona cede, una persona segue la tentazione, una persona una volta tanto salta il fosso e lo salta con piacevolezza. La fame poi viene mangiando, si salta un fosso, se ne saltano 2, se ne saltano 10, in fondo diventa tutto un saltare. Ci si volta indietro, e il saltare del fosso era chiaramente una maniera per richiamare l'attenzione. Richiamare l'attenzione, ma allo stesso tempo anche gratificare se stessi, perché in fondo il salto del fosso, se non fosse piacevole, nessuno salterebbe più fossi. Beh, questa donna si guarda indietro e vede che il marito in realtà è totalmente indifferente alla moglie saltafossi, e quindi improvvisamente la coglie un senso di gelosia di ritorno. Forse avrà anche lui un'altra donna. A questo punto scatta la preoccupazione. La trappola del ricatto amoroso non ha funzionato se l'altra persona non assume il ruolo di vittima. L'altra persona è ben contenta, è ben felice, probabilmente avrà anche lui le sue storie, o anche se non ha le sue storie, probabilmente si è sgravato di quello che è un peso necessario che fa parte del rapporto a lunga scadenza. Quello di dover provvedere anche agli appetiti affettivi, sensuali, amorosi, sessuali della moglie. Ci pensa qualcun altro e probabilmente per lui è il sollievo da una grande incombenza. Ora mi viene chiesta una risposta. Non ho strumenti, non ho esperienza, non saprei cosa dirle, non ci sono mai trovato. Ma probabilmente le conviene rimanga tutto così, perché anche la sua fugace relazione extraconiugale alla fine si esaurirà, come pure quella del marito. Guarderete in faccia, vi direte: ma in fondo siamo due poveri vecchi, incamminiamoci tranquilli verso il nostro viale del tramonto. Oppure magari faccia il patatrac, lo dica: amo un altro. Ma è ben convinta che l'altro poi si possa prendere il carico anche della parte sgradevole di lei, di quella del quotidiano, di quella fatta di ciabatte, di risvegli mattutini con l'alito pesante, di gestione dei figli, della casa. Il rischio è grosso, ma faccia lei, io non sono un consigliere. Souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. souviens-tu au bord de l'eau? Te souviens-tu, il faisait beau sous les palmiers, il est si tard, moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Te souviens-tu des temps anciens? Te souviens-tu de plus jamais? Te souviens-tu, il est si tard? Te souviens-tu, on est si loin? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Rappelle-toi ces bons moments, rappelle-moi juste un instant. Comme si jamais.